Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani ad una nuova puntata di Salva Danaio. Buona giornata a tutti. Parcheggiare i propri risparmi in attesa di tempi migliori, visti i venti di crisi e l'incertezza che continuano ad aleggiare sui mercati finanziari e le persistenti tensioni sui titoli di Stato, anche se oggi sembra ci stiamo prendendo un po' di un sospiro di sollievo, questo parcheggio potrebbe essere una buona idea, o almeno tale la giudicano molti risparmiatori che da qualche tempo non tollerano più la volatilità cui può essere sottoposto il proprio risparmio se collocato appunto in azioni o in obbligazioni. Quindi sempre più italiani si stanno affidando ai conti deposito, tendenza che è abbastanza ragionevole pensare potrebbe accentuarsi, considerato che grazie alla manovra fiscale dal primo gennaio del prossimo anno la tassazione di questi prodotti scenderà dal 27 al 20%. Le banche dal canto loro stanno lanciando sul mercato una gamma sempre più ricca di proposte che spesso si presentano come vere e proprie offerte commerciali per i nuovi clienti. La novità sbarcata sul mercato molti anni fa grazie alla zucca del conto arancio oggi è assolutamente presidiata da quasi tutte le banche. Ma quanto rendono in questo momento questi conti? Quanto sono sostenibili per le banche queste remunerazioni? Sono davvero remunerazioni competitive? A quale profilo di rischio si adatta il risparmio parcheggiato? Ed è davvero da considerarsi una scelta difensiva? Oggi peraltro le banche stanno adottando queste strategie di vincolo per i depositi. Allora, come funzionano anche questi vincoli? Stamattina abbiamo un bel parterre di ospiti per parlare di tutto questo. Saluto e ringrazio il collega Pier Emilio Gadda che mi aiuterà a tenere le fila degli altri anche interlocutori. Eccomi. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Giornalista, esperto di finanza personale e mercati, ha un blog, Quattro Soldi, ma collabora anche con molte riviste appunto finanziarie, settimanali, Il Mondo, Milano Finanza e tanto altro. E poi saluto gli esperti del mondo bancario. Questa mattina mi dovete scusare, sono in difficoltà con la parola, piena di raffreddore fino al naso. Pietro Danzi, nuovo CEO di Barclays Retail and Business Banking Italia. Dottor Danzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno a Nicola Generani, responsabile direzione marketing retail private di Cariparma, buongiorno. Buongiorno. E poi una novità molto recente del mercato bancario, Egisto Franceschi, direttore operativo di Banca Sistema, perché con il loro conto di deposito sono proprio in procinto di sbarcare sul mercato. Dottor Franceschi, buongiorno e benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, per tutte le vostre curiosità sui conti di deposito, 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di fare le vostre domande e quindi di chiacchierare un po' con noi. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666, ma ho anche aperto l'indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it. Allora, visto che il conto di deposito oggi è molto frequentato dai risparmiatori italiani perché sulla borsa, sul mercato obbligazionario continua a tirare un preoccupante vento di crisi e di difficoltà, vediamo un po' stamattina le borse come si comportano. Siamo reduci da tre giornate difficilissime. Oggi le borse tentano un rimbalzo un po' più deciso rispetto a quello molto minimo che avevano tentato ieri, poi fallito nel corso della giornata, ma in ogni caso c'è convinzione, però vedo che c'è anche un po' di fiacca, si batte la fiacca, si potrebbe fare qualcosa di meglio stamattina. Più 2% per Parigi e Francoforte, più 1,80% per Londra, più 2,76% per Milano sul FTSE MIB. Questa mattina il mercato attendeva la decisione della Corte Costituzionale tedesca relativamente alla richiesta che un gruppo di economisti tedeschi oppositori all'euro avevano fatto appunto per bloccare la partecipazione della Germania al piano di salvataggio della Grecia, ma soprattutto al cosiddetto fondo salva stati. La Corte Costituzionale tedesca ha respinto questo ricorso, questo ha risollevato anche l'umore degli investitori questa mattina, ma in ogni caso oltre il 2 al 2,5% le borse non riescono a fare. C'è grande attesa anche sul discorso che il presidente americano Barack Obama farà domani al Congresso. Peraltro è già stato preannunciato dalla stampa americana la presentazione di un super piano da 300 miliardi di dollari per creare nuova occupazione. I titoli che stamattina stanno facendo meglio a Milano, tutti quelli che sono stati sonoramente bastonati nelle ultime tre sedute, e quindi settore automobilistico, settore industriale, settore bancario, Fiat, SPA più 5,66%. Pirelli più 5,37, Exor più 5,16, Luxottica più 4,29, nel settore bancario i migliori sono Monte dei Paschi più 4,26, Unicredit più 3,65, abbiamo Mediolanum più 3,24, stavo cercando anche Banca Intesa che ieri è scesa sotto l'euro nominale, oggi lo recupera più 2,61%. Due titoli negativi, meno 0,7% per Campari, meno 0,6% per Parmalat, euro su dollaro a 1,40,42, da ieri abbiamo imparato che dobbiamo monitorare per qualche tempo in maniera più frequente l'euro sul franco a 1,20,51, quindi leggermente al di sopra di questo rapporto di cambio che ieri la Banca Nazionale Svizzera ha fissato per cominciare a limitare la corsa del franco. Questi i temi di oggi per quello che riguarda appunto la borsa, direi che la possiamo lasciare, ma in realtà con il tema di stamattina non la lasciamo del tutto, perché dati chiari di luna che abbiamo visto sul mercato, molti risparmiatori dalla borsa sono fuggiti, quindi hanno deciso di interrompere questo lungo periodo di tempo che in genere è l'arco di tempo consigliato per rimanere in borsa per ottenere qualche rendimento interessante. Ma Pier Emilio Gadda, se già da qualche anno i conti di deposito avevano successo, credo che nei prossimi mesi saranno il grande cavallo di battaglia, certo anche per la fortuna delle banche che troveranno un modo per fare raccolta, anche se devono remunerare comunque queste scelte dei risparmiatori. Assolutamente il vantaggio del conto di deposito in questa fase appunto quella di consentire al cliente di stare alla larga dalla volatilità dei mercati, non solo sui mercati azionari ma anche sui BTP, come si è visto nelle ultime settimane. C'è la novità che entrerà in vigore il prossimo primo gennaio, facciamo riferimento prima, quindi con l'aliquota fiscale premiante del 20% rispetto all'attuale 27%. Lo dicevi tu prima, il mercato oggi offre molte possibilità, non c'è più l'unicum rappresentato da Conto Arancio che abbiamo conosciuto qualche anno fa, e si va dai conti di Banca IFIS piuttosto che banca, ce n'è un'infinità. La distinzione, guardando la remunerazione, va fatta sul deposito libero piuttosto che sui vincoli, perché parlando di deposito libero, al netto delle varie offerte la migliore proposta prevede un 2,5% lordo. Mm-hmm. Se invece parliamo di vincoli, allora bisogna guardare le durate, perché anche qui sui vincoli si va dai 3 mesi fino ai 12, fino ai 24 mesi, e in questo caso si può ottenere un rendimento lordo anche superiore al 4%, quindi 4,25% è il massimo che il cliente potrà avere. Allora, volevo intanto segnalare ad alcuni ascoltatori che ci stanno facendo delle domande anche sul funzionamento per esempio dei buoni fruttiferi piuttosto che dei pronti controtermine. Oggi isoliamo la nostra trasmissione al funzionamento dei conti di deposito, sempre rimanendo sui prodotti che vogliono proteggere al massimo il denaro dei risparmiatori. Vi anticipo già che domani ci occuperemo di buoni fruttiferi, di libretti di risparmio e anche di pronti controtermine, per cui tutte queste domande magari vi invito a rifarcele se vorrete domani. Andiamo un po' a vedere le offerte. Facci tu un quadro magari sulle migliori offerte che ci sono sul mercato adesso, così cerco di capire anche se ci sono le persone che abbiamo invitato questa mattina. Certo. Pier Emilio. Allora, il 20 settembre partirà questo nuovo conto di deposito di Banca Sistema, che sui 12 mesi darà il 4,25%, arrivando al 4,75% invece sulle somme vincolate a 2 anni. Subito sotto abbiamo Banca IFIS, che offre due possibilità su tutti i vincoli, ovvero da un lato si ha la possibilità di ottenere gli interessi in anticipo al momento del vincolo, e dall'altro lato invece c'è la possibilità di posticipare gli interessi e quindi di avere la liquidazione degli interessi ogni tre mesi. Quindi se li prendi in anticipo devi dare l'assoluta garanzia che non chiudi comunque. Questo è un punto cruciale, perché parlando di vincoli bisogna anche parlare della possibilità eventualmente di svincolare la somma. Non tutti i conti di deposito offrono questa possibilità. Nel caso di Banca IFIS, ad esempio, non è possibile svincolare le somme prima del vincolo, mentre molte altre offrono questa possibilità a fronte evidentemente di una penalizzazione rispetto a quello che era erano le condizioni pattuite al momento del contratto. Sentiamo allora se le persone che abbiamo, le banche che abbiamo interpellato questa mattina, offrono questo margine di libertà ai sottoscrittori dei propri conti, e direi appunto di far fare il biglietto da visita alla novità più recente del mercato. Egisto Franceschi, direttore operativo di Banca Sistema, ci racconti un po' chi siete, poi andremo anche ovviamente al funzionamento del vostro conto di deposito. È stato poi, peraltro, lo devo dire, anche se so che non mi crederà nessuno, del tutto casuale la scelta di questa banca. Ho visto che la remunerazione offerta era molto interessante, poi strada facendo abbiamo scoperto appunto che state lanciando il vostro prodotto proprio in questi giorni. Come mai questa scelta, Franceschi? Ma allora, intanto premetto che Banca Sistema è una nuova iniziativa che mette insieme comunque tre realtà già consolidate esistenti sul mercato italiano ed è di proprietà di tre importanti fondazioni di banca, nonché del fondo di private equity della Royal Bank of Scotland, quindi arriviamo comunque con anni di esperienza su questo mercato. Noi abbiamo visto che per i risparmiatori medi è importante avere dei conti deposito su cui mettere i soldi e che diano un rendimento certo e che siano garantiti, avere una sicurezza per tutto il periodo in cui sono. E come noi, come altre banche, aderiamo al fondo interbancario di tutela dei depositi e quindi i clienti sono coperti al 100% fino a 100.000 euro. Il rendimento che noi abbiamo messo sul mercato è basato su come noi possiamo impiegare i soldi della banca per chiaramente avere una remunerazione della banca e offrire ai clienti il miglior tasso possibile in maniera più trasparente possibile. Le dico già che questa è la domanda che si fanno molti dei nostri ascoltatori. Effettivamente curiosità più grande è capire come questi conti di deposito riescano a riconoscere queste remunerazioni che sono ben lontane, per esempio, dal tasso base della Banca Centrale Europea, quindi in quali strumenti investono. Poi, se volete, alzerete il velo anche sulle vostre strategie di investimento. Andrei adesso, se ce la faccio, forse per un minuto e mezzo, non di più, a Nicola Generani di Cariparma, poi vado a Pietro Danzi nella seconda parte della trasmissione perché non riesco a farlo intervenire ora, per farmi spiegare invece il funzionamento della loro ultima offerta, perché in questo caso è abbastanza originale, è un rendimento che cresce nel tempo, per cui in qualche maniera, mi passi il termine Generani per divertirci un po', li ricattate. Se state con noi per un bel po' di tempo il vostro rendimento cresce, altrimenti vi dovete accontentare di un rendimento molto più modesto. No, mi permetto di correggere questo termine, li premiamo, non li ricattiamo. Il punto di forza del nostro prodotto è proprio premiare la fedeltà dei clienti senza però vincolarli in alcun modo. Perché noi non abbiamo fatto questa scelta strategica, oltre a tutti i vantaggi legati al conto deposito e a premiare la fedeltà, di un'offerta completamente gratuita, quindi senza bolli, senza spese di accensione di questo costo, senza penali di estinzione e con i bolli a carico nostro e senza la necessità di inserire il conto all'interno del deposito titoli, che dopo l'ultima manovra è un punto anche questo piuttosto importante. E dall'altra la totale assenza di vincoli. Il cliente può togliere le somme da questo deposito in qualunque momento, perché è arrivata una necessità o per un momento un cambio di strategia, quindi anche se dovessero ripartire i mercati non c'è assolutamente alcun tipo di vincolo per il cliente, quindi su questo punto di forza puntiamo molto proprio per lasciare la massima libertà e flessibilità ai nostri clienti. Generani, mi tolgo una curiosità in 20 secondi, chi è che cerca il conto di deposito, almeno chiaramente mi riferisco a quello che mi può dire lei relativamente ai clienti della sua banca, chi per esempio ha un'obbligazione bancaria in scadenza, non la vuole rinnovare perché non si fida, chi sta lontano dalle azioni, adesso avete della clientela nuova, ma per quale motivo si sceglie il conto di deposito? C'è così paura del mercato? Guardi, c'è incertezza su tutti gli asset, non soltanto sulle azioni, ma in generale anche sul debito sovrano, perché insomma il cliente capisce che a fronte di alti rendimenti poi c'è anche un tema di rischio sottostante, quindi in questo momento davvero l'espressione del porto sicuro è quella che meglio si dipinge sui conti deposito, perché c'è incertezza su tutte le asset class, non solo sugli azionari, e quindi la gente preferisce ripararsi un attimo in attesa di capire meglio cosa succede sul comparto obbligazionario e sul comparto azionario. Italiani sempre di più alla ricerca di proteggere il proprio risparmio. Con questi chiari di luna dei mercati è un'esigenza assolutamente legittima, e allora hanno avuto un grandissimo successo già negli anni passati, ed è ragionevole pensare che nei prossimi mesi sarà ancora più battuta la strada della ricerca del conto di deposito, anche perché dal 1 gennaio del prossimo anno la fiscalità diventerà più incentivante con l'armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie. Appunto, la tassazione su questi prodotti andrà al 20% dall'attuale 27%. Ovviamente cercando di intercettare quanto più possibile tutti i risparmiatori sfiduciati dall'andamento di borsa e obbligazioni, le banche che stanno cavalcando appunto questo prodotto stanno riconoscendo delle remunerazioni particolarmente interessanti che, come dire, quantomeno l'inflazione la battono, tentano di batterla. L'inflazione sta intorno al 2-8% adesso nel nostro paese, vincolando per un lungo periodo di tempo il proprio deposito, si riesce a spuntare anche qualcosa in più. Stamattina con noi un collega giornalista, esperto di queste tematiche, Pier Emilio Gadde. Per quello che riguarda il mondo bancario, abbiamo già sentito i primi interventi di Nicola Generani di Cariparma e Gisto Franceschi di Banca Sistema. Andrei adesso a Pietro Danzi di Barclays per farci raccontare intanto con che offerta si stanno presentando sul mercato in questo momento e soprattutto quale esigenze stanno raccogliendo da parte della clientela. Chi è che vi cerca, Danzi, in questo momento? Gli sfiduciati, oppure chi insomma fa anche una precisa scelta di investimento che non ha nulla a che fare con scelte sbagliate del passato, quindi un investimento male azzeccato in borsa o sul mercato obbligazionario? Grazie molto, grazie della domanda. Io prima di rispondere alla sua seconda parte della domanda volevo ritoccare un secondo le considerazioni fatte dal dottor Gadda sui vincoli. Sì. Credo sia correttissimo il tema del vincolo temporale, e credo che tutte le persone che ci ascoltano debbano capire che c'è un trade-off tra disponibilità dei soldi a breve e vincoli temporali di qualunque durata, così come esistono in alcuni prodotti vincoli di cross-sell, di cui non è stato parlato, ma anche questo gli ascoltatori devono capirlo molto bene. Che cos'è? Vuol dire che viene offerta una certa condizione sul conto corrente purché il cliente si impegni anche a comprare dei prodotti di investimento nello stesso tempo, in composizioni che possono essere diverse. Ci sono varie offerte sul mercato, il che può essere un'opportunità interessante, ma dove immediatamente, già al momento dell'acquisto, il cliente deve fare una scelta conto corrente più qualcos'altro. Allora, la soluzione che noi abbiamo pensato di adottare in modo molto consapevole, rivolgendoci quindi a un segmento di clientela molto chiaro, è quello di un conto corrente libero. Quindi da tutti i punti di vista il nostro è un conto corrente a tutti gli effetti, da una carta di credito, è libero e riconosce sul conto corrente, quindi non su un deposito collegato con dei vincoli, ma sul conto corrente il 3%, il che vuol dire che il cliente può tranquillamente depositare i soldi per un giorno, una settimana, un mese, portarli via quanto vuole, cambiare l'ammontare che lui investe su questo conto corrente e su tutte quelle che sono le sue disponibilità sul conto corrente riceverà sempre comunque il 3%. Quindi il massimo della flessibilità e della libertà per il cliente. Questa offerta del 3%, se non ho capito male, però dura solamente fino alla fine dell'anno prossimo, altrimenti se si vuole mantenere questa remunerazione bisogna fidelizzarsi ancora un po' di più, Danzi, allora, mi pare. Noi abbiamo in questo momento lanciato il prodotto e dura fino alla fine del 2012, quindi è un periodo in cui il cliente può avere il 3%. Poi quello che abbiamo detto è che questo 3% scende al 2% a meno che il cliente non si fidelizzi con la banca, ma attraverso operazioni anche molto semplici, come semplicemente portare il pagamento di una bolletta in banca. Quindi non stiamo parlando di acquisto di prodotti di investimento, che è una cosa ben diversa, ma stiamo parlando di dimostrare concretamente di voler avere una relazione con la banca su cose banali, possono essere a credito dello stipendio, portare il mutuo, oppure portare la bolletta del gas, la bolletta dell'elettricità, qualunque tipo di cosa che mostri un rapporto di fidelizzazione con la banca. Questo è condizione sufficiente per poter riportare il tasso al 3%. E a questo punto noi diamo la possibilità del tasso al 3% per altri 2 anni successivi. E sono scelte commerciali. Peraltro prima ne parlavo a microfoni spenti con Pier Emilio Gadda, appunto Nicola Generani di Cariparma ci raccontava come per esempio il loro prodotto abbatta la tassazione appunto al 34-20 euro l'imposta di bollo, esatto, praticamente, sì. Ma in realtà non lo fanno solo loro, devo dire che quasi tutti i principali conti di deposito depositi vanno con spese di tenuta conto zero e anche accollano il costo del bollo annuale. Quasi tutti lo fanno, non lo fa per esempio Santander, e nel caso invece di Websella si ha un costo di 14 euro una tantum all'apertura del conto, però quasi tutti lo fanno. Stavo leggendo intanto qualche sms, adesso faccio intervenire anche gli ascoltatori. C'è chi teme che qualche banca nel nostro paese possa fallire. Io mi sento di poter scongiurare questa eventualità, signori, insomma, se ce l'abbiamo fatta nel 2008, adesso sì, riconosco che le situazioni sono diverse perché hanno preso di mira i nostri titoli di Stato e le banche ne hanno pieni i bilanci, però per esempio un'ascoltatrice che ci chiede: io ho un conto di deposito in WeBank, adesso noi parliamo per loro, non ce l'abbiamo neanche ospiti, però la Popolare di Milano va malissimo, dovesse fallire cosa ne sarà dei miei risparmi? È la banca più presidiata dalla Banca d'Italia in assoluto, sta facendo, farà, adesso forse lo deve rimandare, un aumento di capitale piuttosto importante, ci sono delle oggettive difficoltà di governance per questa banca, per tutta una serie di problematiche legate all'organizzazione che non è il caso di spiegare questa mattina, però Pier Emilio... Sì, che oddio. Ne pensi di questa paura? È una paura che possiamo comprendere, però tutto sommato allo stato attuale delle cose un fallimento della Banca Popolare di Milano o di altre grandi banche sarebbe da escludere. Ma infatti, tra l'altro gli ascoltatori chiedono anche qua vedo decine di domande su questo, chiedono se questi conti di deposito hanno le stesse garanzie dei conti correnti, quindi l'adesione al fondo interbancario di tutela dei depositi. Fino a 100.000 euro anche i conti di deposito hanno questa. Quindi se la banca fallisce, comunque se noi abbiamo un deposito fino a questa cifra la banca ci deve restituire. Poi la modalità di restituzione è un po' complicata, non è automatica il giorno dopo, anche questo va detto, magari più avanti ci faremo una trasmissione, anzi non la vogliamo fare perché il fondo interbancario non mi piace analizzarlo, mette troppa paura. Sentiamo un po' cosa ci chiedono i nostri ascoltatori. Anna dalla provincia di Ancona. Buongiorno. Anna, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto, dato che ho l'occasione, mi congratulo con una marchigiana doc. Un'anconetana doc, anconetana. È da tanto che lo penso, ma vive a Milano da molto, però è preparatissima, chiara, efficiente. Ma piace. Vengo anche ad Ancona spessissimo, guardi che sto sempre là praticamente, lei non lo sa, ma io sì. E Rosciani è un nome che ho conosciuto tra gli alunni di Appiliano. Andiamo al conto di deposito, Anna, sì, magari ne parliamo in privato. No, scusate di questa, proprio ci tenevo. Dunque, io ho aderito una volta a un conto deposito con Mediobanca. Mediobanca. Sì, sì, quindi a che banca è? Esatto. E sì, stavo tranquilla, però insomma è andato tutto bene, ma non ho aperto nessun conto corrente. Per queste banche che voi proponete c'è da aprire un conto corrente, poi prima di tutto la sicurezza, questo che di cui ci preoccupiamo tutti. Non è meglio che non intervenga il fondo interbancario. Comunque. No, certo, però c'è, insomma, è una garanzia per noi che forse il nostro ci mette un po' più in condizioni di maggior serenità, Anna. È un'istituzione d'altronde nata anche quando tutto andava bene e quindi è giusto che ci sia. Per quale motivo una persona che ti dà del risparmio, ti dà il suo denaro, appunto deve rischiare da un momento all'altro di vederselo portare via, no? È patrimonio separato comunque della banca, Anna, capito? Sì, va bene. Allora, i tassi di interesse attuali sono entrasse ora oppure aspetta il 1 gennaio con la nuova fiscalità? C'è una variazione? Perfetto, allora Pier Emilio Gadda sa tutto su questo. Sì, è una questione delicata, perché per esempio non si capisce esattamente cosa debba succedere ad una somma vincolata oggi, 7 settembre, con scadenza del vincolo tra un anno, quindi al 6 settembre del 2012. Su questo le banche danno risposte un po' diverse. L'opinione prevalente è che sostanzialmente prevalga il criterio di cassa, quindi io oggi sottoscrivo il contratto, faccio il vincolo e gli interessi mi verranno liquidati tra un anno con l'aliquota del 20%, quindi già con la nuova aliquota su tutta la durata del vincolo. L'aliquota di quel momento, esatto, in pratica, una nuova entrata in vigore in quel momento. Altri invece, nel caso per esempio di Mediolanum, utilizzano un criterio diverso, cioè stabiliscono che gli interessi maturati da oggi fino al 31 dicembre di quest'anno saranno tassati con l'aliquota vigente oggi, quindi il 27%, mentre gli interessi maturati dal 1 gennaio 2012 in poi godranno della nuova aliquota premiante. Con la situazione paradossale che si può creare, ce la raccontavamo prima a microfoni spenti, che se qualcuno avesse aperto un conto di deposito vincolato appunto il 1 gennaio di quest'anno, praticamente volendolo chiudere il 1 gennaio dell'anno prossimo avrebbe subito l'aliquota più incentivante, esatto, pur avendo vissuto invece nel periodo mentre appunto magari dell'aliquota qualcuno, più alta. Un vincolo in scadenza al 31 dicembre, un solo giorno prima, dovrebbe accontentarsi della vecchia aliquota fiscale al 27%. Egisto Franceschi, Banca Sistema, voi che state partendo adesso, quindi magari avete attrezzato tutta la vostra nuova proposta commerciale in un momento in cui neanche pensavate che sarebbe arrivata questa novità fiscale. Come intendete fare con tutti i nuovi sottoscrittori del vostro prodotto, quelli che ovviamente chiamerete, soprattutto che aderiranno alle vostre offerte in questi ultimi mesi dell'anno? Beh, noi liquidiamo gli interessi a fine periodo e quindi applicheremo l'aliquota del 20%, per tutti dal 1 gennaio, quindi in pratica tutti i nostri conti di deposito che partiranno nei prossimi giorni a 6, 9, 12, 18, 24 mesi saranno già compresi, i 3 mesi a partire dal 1 ottobre saranno compresi anche loro. Per rispondere alla domanda, dottor Franceschi, dell'ascoltatrice di Ancona, voi avete la contestuale richiesta di apertura di un conto corrente o ed esclusivamente un conto di deposito? No, noi non chiediamo un conto corrente in Banca Sistema, si può avere conto corrente dove si vuole, anzi noi siamo voluti andare su un prodotto semplice, lineare, proprio solo un conto deposito che remunera il cliente ma non ha tutti altri servizi annessi piuttosto che altre problematiche. Senta, visto che tanto già mi stanno dicendo che stiamo facendo pubblicità, quindi continuo a subirmi questa accusa, c'è un ascoltatore che chiede dove vi può trovare, visto che non tutti hanno internet e vorrebbe un vostro sportello fisico. Allora, noi anche per contenere i nostri costi operativi e rimanere snelli abbiamo solo uno sportello fisico a Milano, quindi ci si può trovare online piuttosto che al telefono. Allora, c'è una domanda incredibile, c'è un ascoltatore che mi chiede, ma scusate, ma in riferimento ai conti di deposito, per quelle persone che possiedono più di 100.000 euro, cosa consigliate? L'eccedenza la mettiamo nel materasso? Beh, si possono sempre scegliere due banche, Pieremilio, mi sembra abbastanza banale decisione, se uno vuole solo il conto di deposito. O anche aprire due conti di deposito presso la stessa banca. Ecco. Quindi in alcuni casi la garanzia è sul appunto per singolo conto corrente, anzi credo in tutti i casi il vincolo vale, cioè la garanzia vale per ogni singolo conto corrente. Allora, un ascoltatore mi dice, se lei ha detto che il fondo interbancario le fa paura, quindi ha già detto tutto. Vabbè, sa com'è, anche in diretta qualche volta vengono partorite dalla mia bocca delle parole che non si dovrebbero utilizzare, nel senso che io preferirei non dovermi più occupare di questo argomento, perché ritengo di poter dire che il sistema bancario italiano sia sicuro. Poi signori, che ne so, questa crisi ci ha insegnato di tutto in questi ultimi 4 anni e mi prenderete a sassate dovesse succedere qualcosa di peggio nei prossimi mesi, ma speriamo di no, ma ci mancherebbe altro. Allora, Giuseppe ci chiede se questi conti di deposito si possono attivare anche per le aziende. Credo che quasi tutta l'offerta commerciale, Pier Emilio, sia per privati, però Banca IFIS forse il conto Rendimax lo fa conto anche per l'utenza business, sì. L'utenza privata. Sì. Allora, andiamo a, era in attesa da un po', forse, Alessandra da Biella. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio di avermi chiamata, ma avete già quasi esaurito tutte le mie domande. Forse, non credo che la sua invece abbiamo risposto. Ma io volevo sapere, appunto, loro danno la garanzia a noi, ma il sottostante, loro dove... Certo, su cosa investono per dare queste remunerazioni? Ecco, certo, esatto. Prima di tutto. E poi come fanno a dare una garanzia? Se uno ha 100.000 euro è garantito dal Fondo Monetario, come diceva, lasciamo perdere. Uno ha 200.000 euro, loro cosa ti garantiscono? Se uno è insicuro può dividere in due, Alessandra, il proprio risparmio, non è detto, sempre per il principio della diversificazione, diciamo che è sempre meglio non lasciare tutte le uova nello stesso paniere, ma questo non vale per i conti di deposito, vale sempre questa regola. Però sentiamo un po' che cosa propongono. Nicola Generani, Cari Parma. Volevo rispondere alla prima domanda dell'ascoltatrice che dice, ma come fanno a dare queste remunerazioni, ma il discorso è molto semplice, non è che questi conti deposito, almeno nel caso nostro, vadano a investire in titoli rischiosi che poi permettono di remunerare in questa maniera i conti dei nostri clienti. Noi prendiamo questa raccolta per rafforzare il patrimonio della banca e fare sviluppo sulla parte impieghi. che ovviamente hanno degli spread ben diversi rispetto a quanto viene remunerata la raccolta. Quindi servono a patrimonializzare la banca per poi crescere nella parte dei mutui, nella parte dei prestiti e nella parte dei finanziamenti delle aziende. Quindi non è che ci sia un rapporto one to one tra l'investimento del cliente e poi un investimento in un titolo. Beh, diciamo che in genere però anche le banche hanno un team di gestori che come dire, lavorano proprio per la proprietà e che vanno effettivamente anche a caccia di investimenti sul mercato, che magari possono riconoscere delle remunerazioni, possono prendere delle posizioni un po' più aggressive rispetto magari ad un piccolo risparmiatore. Questo assolutamente, ma un conto di deposito come primo obiettivo per la banca ha quello di aumentare il patrimonio, di renderla più solida proprio per le politiche espansive sulla parte degli impieghi. Quindi non sono dei titoli che vanno necessariamente a investire quelle somme sul mercato. Pietro Danzi ci vuole dare anche la ricetta di Barclays rispetto all'impiego del sottostante per riconoscere sui conti di deposito, in questo caso il vostro è più vicino ad un conto corrente, delle remunerazioni più attraenti rispetto ad altre asset di investimento? Guardi, assolutamente d'accordo con il dottor Generali, stessa logica, serve a rafforzare il patrimonio della banca, a limitare il livello di leverage, che è una cosa che non va più assolutamente di moda, e quindi a finanziare le attività produttive della banca. Poi volevo soltanto, mi permetto una piccola correzione, il nostro non è più simile a un conto corrente, il nostro è un conto corrente. Che però ha una remunerazione vicina a quella offerta dai conti di deposito. Come remunerazione molto come vicino a un conto deposito. Non avrebbe potuto dirla meglio. Ecco, è un conto corrente totalmente gratuito. Va bene. Pasquale da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, io volevo chiedere fare una domanda al signore l'esperto che avete invitato. Beh, ce ne abbiamo un sacco stamattina, pensi sì, un po'. Sono piene direttamente di al signore delle banche. Sì. Praticamente io dovrei scegliere un tipo di investimento, un conto di deposito. Però chiaramente per districarmi voglio sapere come se c'è uno strumento tipo un sito per far che metta a confronto tutte queste offerte. Pasquale. Sia dal punto di vista, diciamo, del rendimento, ma anche di altre situazioni, no? Allora, ci sono molti colleghi del Sole 24 Ore che si occupano di questo tema. Per esempio, ogni tanto il sabato Nicola Borsi su Plus 24 fa delle belle tabelle di confronto sui migliori prodotti sul mercato. Lunedì scorso invece c'era un pezzo su Corriere Economia, nella pagina investimenti e depositi online, lo stesso una paginetta. Però se io volessi andare su internet, Pier Emilio Gadda, ci sono tanti comparatori adesso di tariffe. Sì, assolutamente, ci sono dei comparatori specializzati anche proprio sul tema dei conti correnti. In generale va detto che le informazioni che le varie banche danno sui conti di deposito sono ottime, trovandole online, quindi non ci sono grossi aspetti da tenere d'occhio, se non appunto quello che è il costo dello strumento, quella che è la remunerazione prevista per il deposito libero e per i vincoli, ed eventualmente la possibilità, come si diceva prima, di svincolare e a quale prezzo la somma depositata. Devo dirti che però io ho un assistente molto efficiente, che è Marco Lombardo, che mi ha trovato alcuni portali ai quali potersi collegare per poter fare appunto dei confronti sulle migliori offerte. Ieri, un paio di giorni fa, abbiamo avuto per esempio un esponente di Supermoney, risparmio.supermoney.eu/conto correnti di deposito. Qui è un po' lungo l'indirizzo, però si può andare direttamente su Supermoney e vedere la sezione dedicata ai conti di deposito. C'è www.confrontaconti.it, c'è anche www.contodeposito.org. Questi li abbiamo trovati al volo in questo momento, speriamo che siano più che affidabili, ma lo saranno sicuramente, almeno per avere un'idea di massima. Certo, lo poi sempre buona cosa comunque andare a controllare direttamente sul sito della banca, perché non è sempre detto che i dati siano aggiornatissimi. Giuseppe dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio. Grazie a lei. Senta, io mi auguro che ci sia qualcuno che non sia in conflitto di interessi. In che senso? Perché ha fatto questa premessa, Giuseppe? Perché se sono tutti interessati magari potrebbero rispondermi. Nessun conflitto. No, anche io e Pier Emilio teoricamente abbiamo un profilo immacolato, però sa meno com'è. Meno male. Senta, allora voglio dire, io ho in corso il pagamento di un mutuo a tasso variabile che ho acceso nel 2009, praticamente con nella curva bassa degli spread e quant'altro. Adesso questo mutuo è in fase di crescita, praticamente su 100.000 euro mi è cresciuto da 900 a 970 euro. Ma credo che si fermerà lì, Giuseppe, guardi, anzi forse allora, aspetti qualche mese che mi sa che ritorna a scendere. Poi io ho della liquidità, mi conviene estinguere il mutuo oppure mi conviene investire in conto di deposito. In conto di deposito, così magari, come dire, mette a riparo la possibile crescita del mutuo. Sa, queste sono scelte molto personali. Io dico sempre una cosa, ma questa è una scelta assolutamente mia. Io, se avessi dei soldi, chiuderei il mutuo domani mattina e me ne comprerei un'altra di casa. Però, appunto, non tutti la pensano come me. C'è chi addirittura dal mattone vuole stare completamente lontano. Facciamo fare, dimmi la tua, poi faccio fare una ricettina a tutti e tre i miei ospiti di stamattina. Ci sono addirittura alcuni mutui nella formula che si chiama offset, che collegano proprio gli interessi del finanziamento al conto corrente. Quindi se si tengono i conti quindi la liquidità sul conto, gli interessi del mutuo si abbattono. Quindi proprio per rispondere a questo tipo di esigenza. Allora, Egisto, Franceschi, Banca Sistema, che risponderebbe a questo ascoltatore? Ma sono d'accordo con lei che è una scelta molto personale, chiaramente ognuno deve decidere come vuole, vedendo quello che remunerano i conti deposito, i nostri come quelli degli altri, uno si può portare a casa un rendimento superiore a quello che ha estinguendo il mutuo. Sento anche Nicola Generani di Cariparma, e intanto stavo anche leggendo i messaggi degli ascoltatori, poi magari qualcuno, se riesco prima dei saluti, ve ne leggo anche pubblicamente. Sì. Non esiste una ricetta valida per tutti, bisogna guardare ovviamente il proprio profilo di rischio, la propria situazione familiare, le proprie prospettive. In generale è chiaro che con i rendimenti che ci sono adesso sul mercato è interessante mantenere la posizione debitoria e andare a investire su questi conti. Pietro Danzi, no, stavo leggendo un ascoltatore che ci chiede, che ci racconta la risposta che gli è stata data in banca sul funzionamento del fondo interbancario, poi ve la leggo. Pietro Danzi, che risponderebbe allora, all'ascoltatore? Sì. Detto che la risposta data è corretta, io farei un suggerimento concreto. Se lui non ha una visione chiara di dove andranno i tassi di interesse e quindi non vuol vincolarsi su periodi lunghi, un bel conto corrente a vista, finché ci guadagna lo tiene, quando non ci guadagna chiude il conto e rimborsa il mutuo. Il conto corrente a vista? Che è cos'ha? 3%, lui ha il 3% ecco. A vista. Beh, e quindi finché lui ci guadagna, non ha nessuna previsione su dove andranno i tassi. Quando non ci guadagna più, può sempre estinguere il mutuo e togliere i soldi dal conto corrente. Insomma, bisogna mettersi un attimo seduti e fare dei conti, quindi delle valutazioni di convenienza. In banca, mi ha scritto Eros da Verona, mi hanno detto che se mi apro più conti di deposito, nella sventurata ipotesi di un patatrac, verrei rimborsato solo per i 100.000 euro previsti dal fondo interbancario presso la medesima banca. Quindi non è che funziona 100.000 euro per ogni conto presso la stessa banca, non lo so, mi possono aiutare i bancari? Generani? Sì, le confermo che è così. Quindi praticamente lui si tutelerebbe aprendo due conti di deposito in due banche differenti, quindi ogni banca risponde per i 100.000 euro. Effettivamente poi la riconfermiamo, io non mi ricordo più neanche come funziona il fondo interbancario, però Pier Emilio, ci torneremo più avanti. Forse. Grazie a te per essere stato con noi, grazie a Pietro Danzi di Barclays, a Nicola Generani di Cariparma e Gisto Franceschi di Banca Sistema. Buon lavoro a tutti, Salva Danaio torna domani con altri prodotti di risparmio che proteggono, che almeno hanno l'obiettivo di proteggere i risparmiatori, buoni fruttiferi, pronti contro termine o libretti di risparmio. Buona giornata a tutti.